Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Allora la borsa, bene Milano, bene quasi tutte le borse europee, più 2,1%, Parigi più 2,4%, Francoforte più 1,5%, l'America più 1,3%, Londra più 1,5%. Che cosa è successo? Niente, in sostanza, nel senso che dal vertice Europa-Asia non è uscito nulla se non delle dichiarazioni, per carità, di scontentezza da parte del Presidente della Banca Centrale Europea Trichet e del Presidente della Commissione Europea Juncker, che hanno detto attenzione, insomma, la valuta cinese è troppo bassa, non si è rivalutata abbastanza, però da lì ad avere poi un vero atteggiamento sul RMB, sul yuan ce ne passa, e comunque di questo parleremo, tant'è che infatti l'euro, al di là delle dichiarazioni roboanti di Bruxelles, sta arrivando a quota 1,39, forse se stavano zitti era meglio a questo punto, visto che ieri era 1,36,7, oggi siamo 1,38,4, il dollaro è debolissimo non solo nei confronti dell'euro, ma anche di nuovo nei confronti del franco svizzero, un nuovo minimo storico a 0,97 franchi praticamente, e ancora per quello che riguarda l'euro su dollaro siamo ai massimi da metà marzo. Che cosa è successo invece in Giappone? In Giappone la banca centrale ha tagliato i tassi, per carità erano lo 0,1%, ma comunque li ha portati a 0,0, e poi ha annunciato che sta valutando la creazione di un fondo da 44 miliardi di euro per acquistare titoli di Stato, fondi immobiliari e altri beni, in sostanza per tenere cioè per andare a controbilanciare un eventuale rafforzamento ulteriore dello yen. Il Giappone infatti, a differenza dell'Europa, può intervenire subito, non ha bisogno di mettere assieme tutti questi paesi, soprattutto le politiche economiche di questi paesi, e ha deciso subito di difendere lo yen. Ora, difendere lo yen in questo momento significa non farlo diventare troppo forte nei confronti del dollaro, e infatti dopo la mossa è salito il dollaro a 83,99 yen. Questo vuol dire che, come già ricordavamo ieri, l'euro continua a essere un po' il vaso di coccio in questa guerra che è Pechino-Washington, ma che si sfoga poi dalle parti nostre, un po' come avveniva, se ricorderete, nel 1500, nel 1600, quando la guerra era tra Francia e Spagna, ma si combatteva poi nel nord Italia. Ecco, l'area euro sta un po' diventando il terreno di scontro di una guerra che nasce altrove. Di questo parleremo anche della dichiarazione del ministro Tremonti, che è intervenuto oggi sui conti pubblici italiani, e tra l'altro Tremonti è intervenuto nel corso di un'audizione in Parlamento, ha detto che lo scenario è meno drammatico di quello che c'è stato, ci sono dei rischi da uno o due paesi posizionati sull'Atlantico, e qui il riferimento era Portogallo e Irlanda, e però ha detto insomma gli obiettivi italiani sono centrati per il 2010. Nella seconda ora parleremo invece di questa proposta che è già passata come emendamento alla giunta della regione Lombardia, in cui sostanzialmente perderanno gli incentivi quegli imprenditori, quelle imprese che, avendoli ricevuti dalla regione, abbiano poi delocalizzato, attenzione, non fuori dall'Italia, basta che sia un'altra regione, cioè che invece che in Lombardia uno vada in Veneto, in Piemonte o in Emilia Romagna, se per caso sposti uno stabilimento o aumenti l'occupazione in un altro stabilimento perdi gli aiuti e gli incentivi che hai ricevuto dalla regione. Ha fatto molto discutere, avremo il capogruppo leghista che l'ha proposta, e avremo anche il vincitore del nostro concorso sul ministro dello sviluppo economico. Lo saprete alle 18:15, visto che il ministro da ieri sera c'è, Paolo Romani. Il nostro concorso è finito, però insomma, come promesso, intervisteremo anche il vincitore. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. sì, è corretto quello che scrivono alcuni ascoltatori. Col costo del denaro in Giappone ti conviene indebitare, ci guadagni quasi indebitandoti. Se non siamo a meno, non è il segno a meno il tasso di interesse, però, però siamo vicinissimi allo zero, praticamente ti conviene indebitarti. Sì. La borsa, dicevamo, 6,5% è il botto di Fondiere Assai, il rialzo. UbiBanca più 4,60 forti oggi, tutti i bancari, Intesa più 3,90, Intesa San Paolo, Buzzinice più 3,80, Impregilo più 3,70, Estima Electronics più 3,5 come CIR e Mediolanum, il 3% lo guadagna Banco Popolare e Azimut, il 2,90 la Popolare di Milano e Unicredito. Bene anche Prismian, Monte dei Paschi e Telecom Italia, tutte in rialzo di 2,5 punti. Non c'è alcun titolo negativo, Terna è quello che guadagna di meno, più 0,3%. E su questo cosa è successo? Molti di voi già ce lo chiedono. Beh, è uscito un dato, l'indice ISM americano, risultato migliore delle attese, l'indice che misura l'attività del settore manifatturiero negli Stati Uniti, e ha dato là, diciamo, agli acquisti in borsa. E infatti è risultato in rialzo a 53,2 punti contro i 51,5 punti di agosto. Nel frattempo sono uscite anche le indicazioni, domani ne arriveranno ancora di più, perché da domani in poi è a Washington il Fondo Monetario Internazionale. Dicevo, le indicazioni del Fondo Monetario Internazionale, che si dice non preoccupato dell'eccessiva volatilità delle valute, dei cambi, c'è sempre stata e non c'è motivo di preoccupazione. E poi ha fatto anche un calcolo di quanto sta costando la crisi finanziaria alle banche. Costa un po' meno del previsto, le banche mondiali, 2.200 miliardi, però resterà, erano stimati 2.300 miliardi le svalutazioni, 2.200 miliardi, meno male che è poco, e comunque resterà molta incertezza nel settore bancario nei prossimi mesi. Poi, secondo il Fondo Monetario, rallenta invece il rischio di contagio dei debiti dei vari paesi sulle banche, per cui i rischi di bilancio restano elevati nelle economie avanzate, però insomma attenzione che il rischio che questa cosa contagi tutto il sistema, secondo il Fondo Monetario, è un rischio in calo. E poi il sistema finanziario viene definito dal Fondo Monetario come il tallone di Achille della ripresa economica. Lo è stato sicuramente per il mitico Jérôme Kerviel, qualcuno se lo ricorda, il trader della Société Générale, condannato oggi, si è beccato 5 anni e deve risarcire, pensate, 4 miliardi e 900 milioni di euro. Una mezza manovra finanziaria, povero Jérôme, 33-34 anni. Noi ancora abbiamo qualche dubbio che avesse fatto tutto da solo, perché un buco da 5 miliardi di euro, così, senza che nessuno se ne accorgesse, ci risulta un po' strano. Alcuni, infatti, anche in Francia, dicono che si è tratto di un grandissimo capro espiatorio, l'utile idiota, diciamo, per nascondere altri buchi della banca. Ancora possibili tagli secondo Moody's al voto sull'Irlanda, però Moody's stessa dice, l'agenzia di rating, che non c'è bisogno di un aiuto esterno. Volevate sapere dell'euro e del dollaro, avete ragione, scusate, l'oro ha fatto ancora un record, ha raggiunto quota $1,330, non si ferma la corsa dell'oro. E poi invece l'euro, ripeto, adesso è quasi a quota 1,39 sul dollaro. Andiamo avanti e parliamo di Italia a questo punto. Perché? Perché sono in arrivo tagli, questa è una buona notizia, alle commissioni interbancarie per Bancomat, Pagoman, Bancomat e per la domiciliazione delle bollette, il RID. Lo prevedono gli impegni dell'ABI, che è l'associazione delle banche italiane, e del consorzio Bancomat, accettati dall'antitrust, che chiudono così due istruttorie aperte dall'antitrust proprio sui costi di questi servizi. I tagli andranno dal 36 al 3% per quello che riguarda i costi dei servizi Bancomat, Pago Bancomat e sostanzialmente sono commissioni interbancarie e il pagamento delle bollette attraverso bonifico bancario. E allora oggi incontro tra Fiat e sindacati sul piano Fabbrica Italia, 20 miliardi di investimenti promessi dalla Fiat nei prossimi anni e portare la produzione di auto in Italia dalle attuali 650.000 a 1.400.000 vetture, di cui 1 milione destinate all'export. Queste erano le cifre che l'Italia aveva 15 anni fa quanto a produzione di auto. Ne parleremo più avanti. Comunque la Fiat ha detto ai sindacati che il progetto Fabbrica Italia, quindi gli investimenti da 20 miliardi, non partiranno se non ci sarà l'impegno formale delle organizzazioni sindacali ad assumersi precise responsabilità nel progetto. E secondo Maurizio Landini, il segretario generale della FIOM, che è la CGL dei metalmeccanici, la Fiat ha detto che non esclude soluzioni che potrebbero andare oltre Pomigliano, cioè derogare al contratto nazionale al di là di Pomigliano, e che la derogabilità al contratto comunque non è sufficiente a rispondere alle sue esigenze. E non siamo soddisfatti, lo ha detto anche Rocco Palombella, non siamo soddisfatti, che è il segretario generale della UILM al termine del tavolo con la Fiat. Su questo poi sentiremo anche alcune voci. Io vorrei adesso iniziare col primo tema di questa puntata, sempre 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, abbiamo letto tutti, è giusto che lo citiate, sul Sole 24 Ore di oggi un intervento di Rogoff che dice l'oro potrebbe andare a 10.000 dollari, non è più un'ipotesi impensabile. Su questo c'è già chi inizia a fare i conti. Fa un po' sorridere, poi insomma c'è chi ha fatto i calcoli, un molare d'oro delle vecchie protesi con questi livelli dell'oro vale circa 80 euro, anche perché contiene solo il 33% di metallo puro. La scheda madre del computer contiene fino a 2 grammi di oro, sono 83 euro, e anche quelle delle lavatrici contengono circa 3 grammi a quintale, perché se qualcosa si può ricavare. Pensate che da 1 milione di cellulari si riciclano circa 37 kg di oro e oltre 386 kg di argento. E poi il boom della posateria e di chi la posateria ce l'ha. Avete letto poi delle banche, ultima JP Morgan, che riaprono i cavò per tenere l'oro, la maggior parte dell'oro sta negli Stati Uniti. In realtà oggi il ministro Tremonti, nella sua audizione al Parlamento, non si è occupato tanto di oro, ma dei rischi sistemici sull'area europea, e ha detto sono possibili scenari avversi, ma non in Italia. La crisi della Grecia ha portato il sistema dell'Eurozona, ma credo anche il cotè politico dell'Europa, sull'orlo dell'abisso nel secondo fine settimana di maggio. Da lì inizia un processo di reazione e di ricostruzione. La struttura dell'azione politica che viene sviluppata in Europa, con un crescente grado di coordinamento da allora e in previsione di scenari che possono di nuovo manifestarsi avversi in altre parti diverse dalla Grecia, in altre parti d'Europa, non in Italia. E Quanti grammi corrisponde un'oncia? Sono 31 l'oncia troy, quella che viene usata per l'oro, 31,1 grammo. Questo per fare i calcoli, quanto siamo ormai con col prezzo dell'oro. E poi anche storie carine. Vorrei però far finire di ascoltare i passaggi più importanti dell'intervento del ministro Tremonti in audizione alla Camera. Gli obiettivi del 2010 sono già stati centrati, e cioè, le previsioni perlomeno così dicono, conformità con gli obiettivi. E poi, i tagli lineari alla spesa, cioè quelli che colpiscono in maniera orizzontale. Beh, dice insomma Tremonti, tutti fanno questi tagli. Le previsioni che abbiamo formulato sul triennio, basate sui dati che sistematicamente riceviamo, da ultimi i dati Istat, ci assicurano la più assoluta conformità agli obiettivi. Siamo assolutamente in linea con gli obiettivi. È un processo che viene osservato costantemente in Italia, in Europa e in tutte le sedi internazionali. Abbiamo ragione di ritenere che gli obiettivi sul 2010 saranno assolutamente centrati. Ma naturalmente siamo aperti a una discussione anche su questi punti. Però ripeto, sulla decisione, per quanto riguarda le decisioni di finanza pubblica, sono quelle definite nel documento presentato in marzo in Parlamento, presentato alla Commissione europea e approvato in giugno, incorporano il decreto legge di luglio. Non vediamo e non prevediamo scostamenti rispetto agli obiettivi su cui siamo totalmente e assolutamente in linea. Quanto sento dire che no, i tagli ma non lineari, vuol dire che non vuoi i tagli, perché ti basta andare a vedere com'è il giro per l'Europa e vedi che i tagli sono tutti operati come abbiamo fatto noi. Cioè un obiettivo nella parte riducibile, un obiettivo percentuale e poi l'autonomia dei singoli ministeri. E da ultimo quello che è un po' il modello di riferimento per tutti, la Treasury inglese, fa così. Quindi quando sento dei maestri che ti spiegano no ai tagli lineari, è solo un modo per conservare la spesa pubblica o per ignorare le pratiche che vengono fatte in tutti gli altri paesi. Punto e andassero. Così ministro Tremonti, che poi ha compiuto la parte più rilevante del suo intervento sui conti pubblici, ribadendo ancora una volta che la scelta non è un'alternativa tra rigore e crescita, non c'è crescita senza rigore. In tutta Europa si fanno politiche di rigore, politiche mirate a ridurre i deficit, a ridurre i debiti, a selezionare le voci di spesa. Naturalmente politiche articolate diverse paese per paese secondo le strutture dei vari paesi, ma fondamentalmente comuni nella cifra politica della responsabilità. Se posso dire una sintesi, è dappertutto diffusa e comune la consapevolezza che non ci può essere crescita senza stabilità dei conti. E su questo dobbiamo essere assolutamente chiari, non esiste una scelta tra rigore e crescita, perché uno tiene l'altro e l'altro tiene l'uno. Il deficit non crea crescita, ma solo diseguaglianza e povertà per le generazioni presenti e future. E questo modifica radicalmente il software politico applicato nei decenni passati. Così appunto il ministro Giulio Tremonti, che è intervenuto anche sulla scuola, sulla formazione, adesso ne parleremo. Devo dare qualche aggiornamento invece sull'oro, vedo che l'oro ha un nuovo record a $1,300 l'oncia, per la precisione 1,330, entusiasma molti ascoltatori. Allora, indovinate un po' chi sta facendo incetta a man bassa di oro? I super ricchi. Ma non lo diciamo noi, lo racconta un dirigente di UBS, che insomma, è Unione delle Banche Svizzere. Quanto a oro e a super ricchi ne sanno qualcosa. Secondo cui i timori di una doppia recessione, il double dip, ossia che questo rallentamento poi vada in recessione, non sia solo un rallentamento, hanno fatto salire le stelle, vabbè, le domande per l'oro, e questo l'avevamo capito anche da soli, ma anche per tutte le azioni in borsa di società che estraggono oro e nel settore minerario in generale, e per i fondi scambiati elettronicamente, gli ETF, ancorati all'andamento di questo settore. Ma attenzione, non comprano solo futures o ETF, spiega uno dei dirigenti di UBS, Joseph Stadler, comprano anche lingotti fisici. La stessa UBS raccomanda ai suoi clienti più ricchi di tenere tra il 7 e il 10% in oro, che è al decimo rialzo consecutivo nell'anno, e racconta, quella cosa mi fa impazzire, Stadler, abbiamo avuto l'esempio di una coppia che ha comprato oltre una tonnellata d'oro e l'ha trasportata altrove. Come? Più che dove? Faremo sapere come si trasporta una tonnellata d'oro. Vabbè, noi dobbiamo occuparci invece di temi molto molto molto più prosaici, ossia la riforma della scuola, le proteste dei ricercatori, la Gelmini che dice che i soldi ci sono, insomma, stiamo cercando anche noi di capirci qualcosa. Sono circa 600 gli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari al DDL riforma all'università in discussione alla Camera, e tra gli emendamenti più attesi il paracadute per assumere circa 9.000 ricercatori. Su questo, oltre alla dichiarazione del ministro Monti che ha detto bisogna investire più che possiamo sulla scuola per ricostruire il sistema dell'istruzione, gli edifici, le borse di studio, tanto per gli scolari quanto per gli insegnanti, la presidente Confindustria ha dichiarato che è inaccettabile bloccare la riforma. Una cosa va detta però, Tremonti ha assolutamente ragione a dire che bisogna investire il più possibile sulla scuola. Però attenzione, è la sua finanziaria l'anno scorso che ha tagliato 8 miliardi in 3 anni all'istruzione. Giusto per... Se no poi ci accusate, siamo sempre pro Tremonti, contro Tremonti, noi siamo per i fatti. E allora sentiamo la presidente Confindustria sugli investimenti, sulla riforma Gelmini. Ha fatto un richiamo molto chiaro e forte che la riforma universitaria non si blocchi. Abbiamo sentito qualche giorno fa della volontà di posticipare la discussione alla Camera della riforma universitaria. Non sappiamo bene quali potrebbero essere in questo caso i tempi di approvazione. Noi diciamo che questa è una riforma strutturale importantissima, quindi noi chiediamo veramente al governo, alla maggioranza e anche all'opposizione invece di discuterla subito e di arrivare a un'approvazione definitiva della riforma universitaria prima possibile. Così appunto Emma Marcegaglia al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Ma dicevamo della scuola. Allora, su questo dovrebbero esserci, per quello che abbiamo capito, insomma, i soldi per i ricercatori, scusatemi, 9.000 ricercatori che dovrebbero diventare associati entro il 2016. Molti di voi ci chiedono del paracadute per i 9.000 ricercatori. Da quello che si è capito, visto che sono 600 gli emendamenti presentati dai gruppi, che cosa è successo? È successo che l'emendamento, una proposta di modifica concordata con il ministro dell'istruzione Gelmini, che è avanzata dalla relatrice Paola Frassinetti del PDL, prevede praticamente, è un po' tecnica la cosa, la chiamata di 1.500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni dal 2011 al 2016. Dall'altro, l'adeguamento in base a una valutazione di merito degli stipendi per professori e ricercatori che devono ancora effettuare la prima progressione di carriera, in modo da arrivare a 9.000 ricercatori che diventeranno associati, professori associati, entro il 2016. Stima anche il costo questo emendamento, 1,7 miliardi complessivamente, da qui al 2016, a cui si aggiungeranno 480 milioni l'anno dal 2017 in poi. Manca ancora il via libera del Ministero al Tesoro. Ancora i ricercatori non si lamentano solo dei soldi, si lamentano anche non solo per qualche euro in più in busta paga, ma è legato soprattutto all'impianto del disegno di legge, e quindi dicono i ricercatori che aumenterebbe il potere dei baroni, non li convince l'ipotesi del bonus in busta paga per l'insegnamento, l'attività che per legge i ricercatori non sarebbero tenuti a fare, che invece fanno, e come, insomma, tutto un insieme di elementi su cui i ricercatori protestano. Sentiamo però il ministro Gelmini per quello che riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo. Ha detto, insomma, l'obiettivo del 3% del PIL, che è l'obiettivo posto a livello europeo, è ragionevole, potrebbe essere raggiunto in tempi ragionevoli. Manca sicuramente molto per raggiungere quel 3% di investimento in ricerca rispetto al PIL, però l'impegno del governo c'è, non solo quello della sottoscritta che è scontato, ma anche quello innanzitutto del presidente Berlusconi e del ministro Tremonti. Dobbiamo cercare di utilizzare al meglio le risorse che abbiamo, negoziare con l'Europa la presenza da protagonista dell'Italia all'interno dell'ottavo programma quadro. Quindi dobbiamo puntare sulla qualità, sulla selezione, sulla capacità di fare sistema, sulla valorizzazione del sistema universitario. Credo che non dobbiamo più pensare all'impiego dei nostri ricercatori, dei nostri migliori cervelli solo dentro gli enti di ricerca, solo dentro le università. Penso che l'impresa abbia bisogno di giovani ricercatori capaci, ma anche i giovani ricercatori debbano guardare al settore produttivo come a una delle opportunità di occupazione. E penso che se questa riforma culturale, prima che giuridica e normativa, della scuola, dell'università, del sistema della ricerca verrà applicata, sono certa che sarà possibile e ancora più utile in un secondo tempo, e mi permetto di dire solo in un secondo tempo, un ulteriore investimento in ricerca, perché io non voglio più vedere risorse spese per piccoli progetti che davvero hanno determinato uno sperpero di denaro pubblico e non un utilizzo virtuoso. Eh sì, la nostra base, sottolinea, parliamo di oro adesso, lasciamo stare la riforma dell'istruzione con 600 emendamenti, non ci si capisce niente, ne parleremo quando sarà definitiva e capiremo di cosa stiamo parlando. La riforma Gelmini, ogni volta che c'è un nuovo ministro si fa una riforma dell'istruzione. Parliamo di oro, oro. GoldenEye, questa è la base. Allora, volevate sapere quanto ammonta una tonnellata d'oro dopo che il dirigente dell'UBS, dell'Unione delle Banche Svizzere, Josef Stadler, ha detto che una coppia è arrivata e ha comprato oltre una tonnellata d'oro. Beh, insomma, una tonnellata d'oro vale 43, ai prezzi attuali, milioni di euro. Di dollari, chiaramente, l'oro in dollari, non in euro. 43 milioni di dollari è un po' meno, perché siamo a 1,34, di quanto ha ricevuto Profumo per la sua liquidazione. Lo dico perché si parlava di coppia. Non è sicuramente lui, anche per una tonnellata, dove metterla? Molti di voi hanno detto, ma una tonnellata non ci sta tranquillamente in un furgone, in un camion. Sì, siamo d'accordo, il problema in questo caso non è il mezzo di trasporto, cioè, è il trasporto il problema da avere. Nuovi record, diciamo, su tutte le materie prime, e euro fortissimo a quota 1,38,36. Adesso arriviamo ai mercati finanziari, però su questo vorrei sentire Antonio Poglio Salimbeni, perché corrisponde del Sole 24, del Radio 24, il Sole 24 Ore da Bruxelles, perché non c'è stato in questo momento un grande, anzi si è ottenuto l'effetto opposto in quello che i paesi europei hanno discusso anche oggi contro la Cina. Sentite Trichet in conferenza stampa, il presidente della Banca Centrale Europea, cosa ha detto sulla valuta cinese. Enhancing exchange rate flexibility to Un aumento della flessibilità del tasso di cambio dello yuan deve riflettere i fondamentali dell'economia. Questo è l'orientamento della Cina ed è stato confermato. Considero questo fattore molto importante, ma abbiamo notato che l'evoluzione effettiva del tasso di cambio dello yuan, anche nei confronti dell'euro, non è stata esattamente ciò che speravamo. Sottolineo che la flessibilità del tasso di cambio sarebbe innanzitutto nell'interesse della Cina, che, ripeto, concorda su questa posizione. Rappresenterebbe inoltre un importante contributo alla crescita globale. Voglio infine aggiungere due cose. La prima è che ho avuto l'occasione di dire al primo ministro cinese che abbiamo apprezzato la fiducia del governo nel debito sovrano europeo. La seconda cosa è che abbiamo un rapporto molto stretto e di fiducia con la Banca Centrale Cinese. È una cooperazione di lunga data che si è rafforzata nell'ultimo periodo in cui si è allargato il contesto di governance economica anche a tutti i mercati emergenti, di cui la Cina è sicuramente la capofila. Così Jean-Claude Trichet ha detto, insomma, va bene la proposta della Cina, però occorre rivalutare la valuta cinese. Ancora più ha spaventato la Cina il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, che ha detto la Cina, insomma, deve accrescere la sua domanda interna, deve consumare di più, perché qua non sappiamo dove esportare, non può continuare a esportare i suoi prodotti e non consumare. E la valuta cinese è sottovalutata, cioè vale troppo poco, da un aiuto indiretto, anzi diretto, alle esportazioni cinesi. Speriamo che vi sia più flessibilità. China's recent growth performance has been an important. La crescita economica cinese è stato un elemento molto importante per superare la crisi finanziaria ed economica globale. Tuttavia, abbiamo chiesto alle autorità cinesi di bilanciare la crescita del paese in modo da aumentare il contributo della domanda interna al PIL, riducendo nel contempo il contributo degli investimenti e delle esportazioni. Crediamo che non sia stata una sorpresa per i nostri amici cinesi il fatto di aver rilevato che il tasso di cambio effettivo dello yuan rimane sottovalutato. Abbiamo apprezzato la decisione di Pechino a giugno di accrescere la flessibilità della moneta, ma il potenziale di questa decisione non è stato ancora sfruttato sufficientemente. Pensiamo che un apprezzamento significativo della moneta cinese aiuterebbe lo sviluppo di una crescita più equilibrata e di questo beneficerebbe sia la Cina che l'intera economia globale. Promote a more balanced growth to the benefit both of China and the global economy. E in effetti queste parole hanno dato una linea dura ai mercati, hanno indirizzato i mercati, hanno fatto capire quanto l'Europa è disposta ad alzare la sua voce, e infatti l'euro si è ulteriormente rafforzato rispetto a tutti, rispetto al dollaro, rispetto allo yen, rispetto anche al RMB. Insomma, li abbiamo spaventati a morte questi cinesi. Antonio Poglio Salimbeni, buonasera, corrispondente di Radio Corda a Bruxelles. Buonasera a voi. Cioè, sì, naturalmente, era meglio se non lo facevamo sto vertice. No, nel senso che hanno fatto un vertice per dire che l'euro è troppo forte, occorre che i cinesi rivalutino un po' la valuta, e la conseguenza è che abbiamo fatto un nuovo record adesso, 1,38,5. Magari se stavano zitti l'euro scendeva un po', non lo so. Infatti, in realtà l'euro sta diventando un po' la vittima, tenuta in ostaggio da dollaro, da yuan, anche dallo yen. Questo è il punto, è la terza volta che l'Eurogruppo, la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea chiedono al massimo livello politico cinese di rivalutare la moneta tre volte nel giro degli ultimi due anni e mezzo, ma il risultato finora non arriva. Naturalmente i cinesi sono stati molti i cinesi, la troica economica dell'Eurozona ha incontrato il premier cinese Zheng Jiabao, il quale è stato molto gentile, molto cortese, ma non ha preso alcun impegno nel senso indicato dall'Eurozona. Questa è la notizia. Dopo la tua analisi ho un tremendo sospetto che noi contiamo poco. Insomma, abbiamo chiesto con una voce flebile, molto timida, se per favore i cinesi potessero farci anche la cortesia di rivalutare un po' la loro moneta, perché noi qua con 1,40 non riusciamo a esportare. Però poi abbiamo festeggiato, se ho ben capito, come europei, il fatto che la Cina comprerà un po' di bot greci, perché lì, no, visto Juncker e Trichet, bene la proposta, apprezziamo la proposta della Cina. Domanda: come mai si è risolta in una simile così operetta, debacle, caporetto, tutto questo pompatissimo vertice ASEAN, c'è Europa, Asia? Ma la verità è che l'euro è vittima di un paradosso. Meno male che ci sono i cinesi che confermano la fiducia nei bond greci e magari domani in quelli irlandesi, portoghesi e di qualche altro paese, ma dall'altra parte questo non fa che rafforzare l'euro, che in realtà non dovrebbe essere rafforzato perché i rischi sul debito sovrano ci sono, le preoccupazioni sulla fragilità del sistema del settore finanziario oppure. L'euro è vittima di un paradosso, tanto più che qui si chiama, ormai non si parla più di qui a Bruxelles di euro, ma di euro killer, cioè killer delle, che uccide le prospettive economiche dell'intera eurozona. Sì, questa è la cosa abbastanza paradossale. Vedo ancora vedo un messaggio di un ascoltatore che dice: sostituiamo l'euro con lo yuan, basta abituarsi. In effetti, voglio dire, ci siamo già abituati dalla lira all'euro, non sarebbe una mossa molto spiazzante, a quel punto anche noi spostiamo in yuan. Il debito però poi ce lo dobbiamo pagare con la valuta cinese, attenzione. C'è chi invece polemizza con Tony, non capisco, sull'oncia. Oh, ragazzi, l'oncia vale 31,1 grammo, l'oncia troy, non discutiamola ogni volta, quella che viene utilizzata per l'oro. Se poi uno va su Wikipedia o su Enciclopedia e guarda oncia, è un'altra cifra, ma è un altro tipo di oncia. Chiuso e ringraziando Antonio Poggio Sembeni in collegamento con noi da Bruxelles, apriamo invece il collegamento con Livia Zancaner. Più 2%, dati manifatturieri americani migliori delle attese, l'indice SM, mi sembra un po' una scusa anche qui, perché non penso che sia sull'indice ISM che Fondiera 6 guadagna il 6,60%, Fondiera 6 potremmo dire, UbiBanca più 4,88, Impregilo più 3,90, Buzzi Unicem più 3,60 come Intesa San Paolo, ST Microelectronics più 3,5, CIR più 3,20 come Mediolanum, il 3% lo guadagna la Popolare di Milano. Livia. Sì, allora vabbè, per quanto riguarda, allora, bisogna dire che i listini hanno mostrato un andamento nervoso questa mattina e poi volatile come in tutte le sedute di queste ultime settimane, in realtà poi hanno accelerato col buon andamento di Wall Street e per quanto riguarda in particolare Fonsai, che appunto ha guadagnato il 6,6% accelerando sul finale, il motivo del rialzo è legato a delle indiscrezioni stampa relative a un possibile cambio nell'azionariato della società. Infatti di questi giorni la notizia che il finanziere Vincent Bolloré è salito sopra il 2% del capitale di Premafin, che è la holding controllante di Fonsai, e dopo questo incremento sono riemerse voci sulla possibile cessione del gruppo. Infatti si parla della discesa in campo su Fonsai di qualche gruppo assicurativo francese come Groupama o AXA, proprio a seguito degli acquisti di Bolloré in Premafin. A Groupama abbiamo chiesto al ministro delegato non più tardi di 3 settimane fa se era interessato a fare acquisizioni, ha detto che le guardava con interesse, in tutti i modi abbiamo cercato di tirare fuori un nome, vedi che poi gira e rigira qualcosa, bolle in pentola. Andiamo avanti, Azimut e Mediolanum, risparmio gestito a settembre ripartito. Sì, allora domani saranno pubblicati i dati sulla raccolta dei... Qualcuno già li sa però, Olivia. Dei fondi, ma sì, in realtà alcuni analisti oggi hanno sottolineato che settembre è stato ottimo e quindi, in particolare per quanto riguarda Azimut, vi sono stati molti giudizi positivi sul titolo, infatti secondo gli esperti appunto una ripresa di interesse nei fondi comuni darebbe un'accelerazione anche al titolo Azimut. Allora Azimut oggi ha chiuso a 7,325 euro e i target indicati sono tra i 9 e i 10 euro, quindi comunque i riflettori sono tornati puntati sulla società del risparmio gestito. Ancora poi bene tutte le banche, c'è una notizia che mi interessa molto che riguarda Coin, però, perché al di là del titolo più 4,5% sono tornate le voci di un interesse di fondi Clessidra, sono fondi di private equity e Carlyle. Sì, allora assolutamente sì, tra qualche settimana inizierà la procedura di vendita che permetterà l'uscita del fondo PAI, che oggi è azionista di Coin, e oggi i numeri uno, quindi di Clessidra e di Carlyle, hanno confermato l'interesse per il gruppo. Quindi Sposito, che è il numero uno di Clessidra, ha spiegato proprio che il fondo potrebbe partecipare alla gara per rilevare la società, però affiancato a qualche altro player internazionale. Ancora Luxottica, ragioniamo anche su notizie di mercato, ha firmato con la Coach, società americana che produce gli accessori nel mondo non solo dello sport, perché produce scarpe, borse, pelletterie, profumi, un accordo di licenza non da poco. No, infatti la società ha comunicato di aver firmato questo accordo con il gruppo americano, l'intesa a partire dal 1 gennaio 2012, e secondo le previsioni a regime il fatturato della licenza al di fuori dei negozi Coach dovrebbe essere di circa 100 milioni di dollari l'anno, quindi questa notizia ha premiato il titolo, che ha guadagnato l'1,6%, non risentendo quindi della debolezza del dollaro. Ancora, infatti, oggi devo dire che hanno sofferto poco i titoli legati al dollaro come Luxottica. Autogrill ha guadagnato comunque l'1%, tutto positivo al mercato. I bancari, non volevo parlarne, ma insomma, UbiBanca più 4,90, Intesa più 3,70, Popolare Milano più 3%, Unicredito più 2,80. Sì, le banche questa mattina erano partite a razzo. Stamattina deboli questa mattina, ma insieme all'andamento dei mercati. Poi, visto l'accelerazione, hanno iniziato a guadagnare terreno, quindi già da metà mattina, per poi recuperare a metà giornata. Per quanto riguarda UBI, è il secondo giorno comunque che le azioni sono sotto i riflettori del mercato, grazie anche ai giudizi positivi degli operatori, e UBI comunque seguita a ruota dalle altre banche, appunto come Intesa e BPM. Sì, giudizi positivi che sono arrivati anche su Generali, che guadagna il 2,1%. Telecom invece il 2,20%, e poi una notizia che riguarda invece il collocamento in borsa di Green Power, quindi l'operazione dell'Enel. Enel Green Power andranno sul mercato tra un prezzo compreso tra 1,9 e 2,4 euro e un base price, ossia il prezzo cui le banche baseranno il marketing della quotazione, intorno ai 2,1 euro. Grazie a Livia Zancanera, Radio Corriere sulle 24 ore. E poi parliamo di ciò che è passato come emendamento della Lega, ossia le imprese in Lombardia, ma varrà anche forse per altre imprese in Italia. Se apro uno stabilimento o sposto gli investimenti in un'altra regione, perdono tutti gli incentivi regionali ottenuti. Eh sì, che è successo? Tre righe infilate in un voluminoso documento, è il piano di sviluppo regionale della Regione Lombardia, che dicono testualmente così. La Regione Lombardia può procedere ad azioni di disincentivazione, compresa la revoca di misure di sostegno alle imprese nei casi in cui la delocalizzazione produca un impatto occupazionale negativo sul territorio lombardo. Quindi non c'è più un problema di le imprese italiane che delocalizzano all'estero, e sappiamo che delle volte sono costrette a farle. Adesso il problema è la concorrenza anche interregionale tra regioni, perché qui si citano anche casi di imprese che hanno delocalizzato, si fa per dire, ma in Sardegna piuttosto che a Caserta, penso all'Indesit a Caserta o Meridiana in Sardegna. Allora, siamo in collegamento, lo ringraziamo chiaramente, con il capogruppo della Lega in regione, e quindi chi ha proposto questo emendamento, già approvato dal Consiglio regionale, quindi è già operativo, e mi riferisco a Stefano Galli. Buonasera, consigliere. Buonasera a lei. Allora, mi dica una cosa, io capisco insomma che forse si va verso elezioni, che c'è bisogno di rinsaldare le file, ma un conto è parlare di delocalizzazione verso est, Turchia, Asia, e già lì, se uno deve farlo per stare sul mercato, meglio avere un impianto fuori pur di riuscire a mantenere i dipendenti qui, ma o parte dei dipendenti qui. Ma qui addirittura si contesta, in maniera devo dire abbastanza consona alla Lega, la delocalizzazione in un'altra regione. Cioè, se io porto la mia impresa o parte della mia impresa dalla Lombardia al Veneto o dalla Lombardia all'Emilia, posso perdere tutti gli incentivi che ho ricevuto? Ho capito bene? Secondo lei è giusto invece incentivare un'azienda che ha già deciso di chiudere i battenti e di lasciare per strada qualche decino, qualche centinaio di dipendenti per andare a aprire altrove? Sì, devo capire perché per altrove, cioè io ragiono da italiano, quindi penso che insomma, se un'azienda altrove per me è fuori dall'Italia, in alcuni casi anche fuori dall'Europa. Se iniziamo così, io vorrei capire poi se non temete un effetto boomerang su questo, Galli, no? Non temiamo nessun effetto boomerang, la gente è più intelligente di altri. Per cui secondo lei non è che uno poi ha paura di a venire in Lombardia perché se questi incentivi poi se per caso deve portare 20 dipendenti in Emilia li perde, no? Quello che sta dicendo lei lo dice Confindustria, però francamente non ci preoccupa, anzi è una forma di tutela che proprio le piccole e medie imprese invece hanno apprezzato moltissimo. Non ultima un'associazione sindacale che non è certo della Lega, che è la CGIL, tanto per fare un esempio. Ah, la CGIL in effetti ha detto che questo emendamento va bene. Sì, il fatto che lo dica Confindustria non vuol dire che è un soggetto che di solito ha voce in capitolo sul mondo delle imprese, no? Per sì, cui... però per fortuna decide la politica e non Confindustria, insomma. Ah, vabbè. Va bene, va bene. Quindi è un alto là a Confindustria questo, secondo lei? No, è un alto là a chi vuole fare il furbo. E cioè prendersi gli incentivi lombardi e poi aprire... Certo, lei metta il caso che si facciano dei bandi, come spesso accade, per incentivare le aziende al rilancio, comunque per quanto riguarda l'ammodernamento tecnologico, e guardi che non sono migliaia di euro, ma centinaia di migliaia di euro, e poi... prendere atto che questa azienda chiude e apre con quegli incentivi una sede anche fuori Lombardia. Secondo me non mi sembra nemmeno un comportamento molto lineare. Sì, su questo c'è stata ampia condivisione in consiglio, perché l'emendamento non si capisce se sia, lo dico con massimo rispetto ai Galli, se sia passato perché era tre righe oppure perché ci fosse un ampio consenso. No, è stato votato dall'Assemblea, mi pare a grande maggioranza. Forse qualche no, ma è venuto solo forse dall'Italia dei Valori, ma credo di non sbagliare. Ecco, mi scusi, visto che lei è capogruppo della Lega in regione, secondo lei tutte le regioni dovrebbero fare così a questo punto? Cioè il Veneto dovrebbe fare la stessa cosa per i suoi incentivi, la Basilicata per i suoi? Questo non lo so, per quanto mi riguarda io sono capogruppo in Regione Lombardia e né del Veneto né della Basilicata. Mi occupo di Regione Lombardia. No, ma dico, ma il principio, uno crede anche nei principi, cioè... non è che io non rubo a casa sua, però poi dico gli altri facciano quello che vogliono. Cioè, se questo è un principio condiviso, se ho ben capito, ogni regione dovrebbe spendere solo per le imprese, secondo voi, che non vanno a delocalizzare fuori, ho capito bene? Mi risulta, ma non vorrei sbagliare, ma credo di non sbagliare, che altre regioni hanno adottato provvedimenti simili, non ultima l'Umbria e credo anche la Toscana. Addirittura l'Umbria è andata ben oltre, chiedendo anche la confisca dei beni o robe del genere a aziende che fanno operazioni di questo tipo, però si può verificare. Cioè quelle che aprono stabilimenti in un'altra regione italiana, di cui stiamo parlando. Vabbè. Prima di tornare a lei, Galli, vorrei avere il commento di un'altra persona che in realtà avevamo invitato in quanto vincitore del nostro concorso su chi dovrebbe essere il ministro dello sviluppo economico. In realtà è il terzo classificato, adesso capirete però perché i primi due non li potevamo portare. Allora, adesso io vi prego di credere, come sempre fate, alla serietà di questo programma, anche se mi rendo conto che è un passaggio difficile. Non per i primi due, i primi due non li potevamo invitare, adesso capite perché. Al primo posto con 150 voti è Marcegaglia, al secondo posto con 120 voti è Luca Cordero di Montezemolo, quelli indicati da voi come possibili ministri dello sviluppo economico. Poi ce ne sono tantissimi altri, Mario Monti, Sergio Marchionne, Boeri, Baldassari, Profumo, Urso, Saglia, Tremonti, Castelli, Berlusconi, De Aglio, Galan, Bersani, Brunello Cucinelli, Siniscalco, Della Valle. Però al terzo posto, dopo Marcegaglia e Montezemolo, c'è Oscar Giannino e vi giuro che non l'abbiamo fatto apposta. Oscar, buonasera. Buonasera a voi, posso dire che non mi sono votato, ma non so quanti ci crederanno almeno, che non è una combriccola tra noi, ma non è così. Almeno questo te lo concediamo. Allora, prima di arrivare a quello che avresti fatto tu se noi avessimo avuto potere di nominarti, visto che la Marcegaglia ha già declinato quando gliel'ho offerto Berlusconi, Montezemolo mi sembra che forse potrebbe farlo, ma magari non in questo governo, tu potevi essere l'unico candidato realistico. Però vorrei tornare molto serio perché il tema è molto serio. L'iniziativa della Lega, che poi è passata in giunta, beh, secondo me crea uno spartiacque e potrebbe anche rappresentare un modello, perché insomma, se tu lo vai a vedere sulla base dei messaggi che arrivano, il consenso è alto su un'iniziativa del genere. Posso dire due cose, perché io, prima cosa, a me non piacciono molto quelle cose contro il mercato, però stiamo attenti anche nel come la presentiamo questa cosa, perché abbiamo un'esperienza in Italia di... prendi i soldi e scappa sugli incentivi? Sì, storicamente ne abbiamo una enorme. Cioè in tutto il Mezzogiorno, per decenni, sia nel regime cassa del Mezzogiorno, regime straordinario, sia in quello che si è sostituito poi con le politiche di coesione dagli anni 90 in avanti, finita la cassa del Mezzogiorno, con incentivi che sono rimasti però al 75% discrezionali e non automatici, perché noi continuiamo a dare nel sud, diciamo, più o meno 4 miliardi e 4 nel 2009 di incentivi, di cui e sono praticamente quasi tutti discrezionali. Noi abbiamo avuto un enorme fenomeno pluridecennale di imprese dichiarate come tali, che prendevano gli incentivi e poi non facevano seguito nel piano industriale, perché quando sono discrezionali e non sottoposti al procedere poi del piano industriale e così via, è funzionato così. Noi abbiamo buttato dalla finestra decine di miliardi di euro di oggi nella storia del Sud, esattamente verificando l'ipotesi di andare a prendere, arbitraggiando gli incentivi senza poi tradurli in impianti, sviluppi industriali o imprese di servizio. Quindi questa è una cosa che purtroppo in Italia è avvenuta. Secondo, se entriamo in una logica di federalismo competitivo, come quella prefigurata anche con la manovra biennale, per cui le regioni saranno titolari del diritto, per esempio, di mettere l'IRAP zero, sì, certo, in alcune aree, effettivamente noi entreremo in una prospettiva nella quale le diverse regioni, per attirare capitali, investimenti, imprese, possono, se sono in linea col patto di stabilità, diminuire le aliquote, e a quel punto vince chi offre le migliori possibilità di rendimento del capitale investito. In questo quadro, che non è secondo me un quadro antidelocalizzazione, la stessa Europa, stiamo attenti, la stessa Europa con ogni probabilità ci chiederà di sottoporre il diversificato a livello territoriale regime di incentivi a norme per le quali, per non essere antimercato, si deve vigilare sul fatto che non siano incentivi prendi soldi e scappa, perché a questo l'Unione Europea è contraria. Quindi io capisco che il senso, ed è la cosa che politicamente mi piace di meno ed è quella che piace alla CGIL, è quello di dire chi sta in Lombardia stia solo in Lombardia e non diversifichi, ma però bisogna ammettere l'idea che nel quadro del federalismo competitivo, in quello che ci può chiedere Bruxelles, è una norma che purtroppo sta sia nell'esperienza italiana che nelle possibilità che Bruxelles stesso ce la chieda. Allora, Stefano Galli intanto ha incassato in qualche modo l'approvazione di Oscar Giannino, che non era scontata, da un lato. Dall'altro però le chiedo io, questo vale solo per un'azienda che abbia incassato degli incentivi, non so, e abbia mantenuto i 90 dipendenti, se ne deve assumere altri 30 e lo fa in uno stabilimento, diciamo, in Piemonte, in Emilia o in Veneto, vale uguale? O è solo se incassati gli incentivi poi ne sposta su 90-30 dipendenti in un'altra regione? No, il nostro intendimento è molto chiaro. Per chi invece ha già assunto una propria, come dire, riorganizzazione industriale, quello che vogliamo evitare è che qualcuno si adoperi per ottenere incentivi, come le ho detto prima, ci sono degli incentivi che la Regione Lombardia fa e sono anche significativi, sull'ammodernamento tecnologico, quindi macchinari moderni, quindi competitivi sul mercato, che si arrivi poi a ottenere questo finanziamento e una volta ottenuto, invece che utilizzarlo per quella finalità, viene riutilizzato, reinvestito per fare l'altra operazione a cui faceva riferimento poc'anzi il dottor Giannini. E quello noi lo vogliamo evitare, quindi è in quell'ottica, in quella filosofia che lo abbiamo presentato. Per cui se io alla fine ottengo il finanziamento, mantengo il mio stabilimento, per esempio faccio innovazione di processo, di prodotto, e poi decido di assumere 30 impiegati in più o operai in più, magari nella Basilicata, voi questo non tocca, cioè io non perdo i miei incentivi, no? Per far capire a tutti quelli che scrivono al 349-238-6666. Un'ultima domanda al capogruppo della Lega in Regione. Altre iniziative in vista, visto che magari marzo è vicino? No, questo non lo so. Beh, dopo queste cose vengono da sé. Va bene, grazie. Adesso io devo chiedere al Ministro Sviluppo Economico in pectore che cosa farebbe lui. Grazie, se vuole sentire Galli resti con noi in collegamento. Grazie comunque al capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Stefano Galli. Oscar Giannino, a questo punto ti vorrei, come se tu fossi, come si giocava una volta, il ministro dello sviluppo economico, e visto che i nostri ascoltatori ti hanno, dopo Marcegaglia e Montezemolo, eletto, e ti va bene comunque, che faresti? Quali sarebbero le tue priorità? Farei due cose nelle mie dirette competenze e poi invece farei una proposta. Quelle poche che ti sono rimaste, diciamo. Quelle poche che mi sono rimaste, diciamo così, perché il ministero nel frattempo è stato un po' smontato, diciamoci, sì. Nel senso che i fondi FAS, per esempio, oramai Fitto, il Sud e così via. Però, prima cosa, adotterei i crediti fiscali alle imprese per la ricerca, farei una proposta per la quale il mio ministero dice li traduciamo in una via standard ordinaria e non con i finanziamenti anno per anno e tantomeno col click day, questo è ovvio. Questa è la prima cosa, cioè le imprese hanno bisogno di certezze sugli incentivi fiscali pluriennali per avviare investimenti veri e sa Dio quanto c'è bisogno di certezza di investimenti, prima cosa. La seconda cosa si chiama banda larga, perché questo sta nelle competenze del Ministero, tutti i tavoli tra operatori sono praticamente quasi tutti saltati perché hanno prospettive diverse gli operatori, abbiamo per via dello switch tecnologico della televisione la possibilità di fare una grande gara per le frequenze che si liberano come ha fatto la Germania e come altro, lo farei subito, annuncerei che l'anno prossimo noi facciamo una gara delle frequenze che si liberano per rendere possibile la disintermediazione dei computer alla banda larga e mettere più spettro di frequenze per la banda larga. E in più direi che a questo punto però il Ministero si riserva anche una proposta per consentire agli operatori portatori di tecnologie più avanzate, cioè fibra, di avere un particolare disincentivo fiscale per estendere la propria rete. Se gli operatori non si mettono d'accordo, secondo me lo Stato deve non solo superare il digital divide, ma accrescere la produttività di tutte le piccole e medie imprese che sono nel 75% del territorio italiano in condizione di non avere banda larga. Invece la cosa che poi mi renderebbe non so quanto popolare, soprattutto se sotto elezioni, chiederei al titolare dell'economia, cioè Giulio Tremonti, apertamente e pubblicamente, se se la sente, di fare come in Germania per quello che riguarda la finanza pubblica, cioè un tetto costituzionale alla spesa pubblica, come in Germania, dal 2015 è possibile fare deficit in Germania solo entro il 0,35% di PIL e questo ci darebbe una credibilità ai mercati internazionali superiori a ogni vincolo europeo, e un tetto al prelievo fiscale, sempre in Costituzione come in Germania. Ed è il motivo per cui Oscar Giannino non farà mai il ministro allo sviluppo economico, questo mi sembra chiaro perché dubito che vi sia un patto del genere. Detto questo, chiari i tuoi punti, la parte fiscale di sicurezza e garanzia alle imprese, sugli investimenti, i click day, ci chiedono alcuni ascoltatori cos'è, è quel modo per cui tu partecipi ai finanziamenti, diciamo per gli investimenti sulla ricerca con un click al computer, per cui o tu hai il morbo di Parkinson oppure hai la scarsissime possibilità, Oscar, di farcela. E poi la parte della banda larga, ne abbiamo parlato molte volte, e l'accordo con il ministro Tremonti. Mi dispiace Oscar, ma non sarai tu a proporre queste cose. Comunque, in bocca al lupo, e tanto domani mattina lo sentite alle 9 di mattina. Grazie Oscar Giannino. Grazie a te, grazie a voi tutti. E allora, peccato, dicono alcuni, che non sia Oscar Giannino il ministro dell'economia. Giuseppe Cruciani, pochi voti, ma non me li aspettavo, anzi direi nessuno nella nostra personalissima classifica. Per me? Per te come ministro dello sviluppo economico. Ci mancherebbe altro. Personalissima classifica è un po' imbarazzante. Ah no, scusami, due. Adesso ho visto la classifica. Qualche pazzo. La nostra imbarazzante classifica perché sembrava uno spottone per la radio. Vai tu con i temi della zanzara. Ma i soliti temi del chiacchiericcio della politica. Parleremo naturalmente della vicenda ancora delle barzellette di Berlusconi, della bestemmia di Paolo Romani. Comunque, perché c'è una discussione sul conflitto di interessi per come lui ha lavorato sulla televisione insieme a Berlusconi e altre cose ancora. E allora, tra poco la zanzara, Focus Economia invece torna domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.